ricordi quando non avevo niente e dicevamo siamo il sangue, il sangue per sempre. Con la roba sotto sella per strada a dicembre, quando tornavo con le lame infilate nel ventre. Tu sei rimasta una bandita con il viso angelico, con le braccia attorno al mio collo come il crocifisso del battesimo. Quando la realtà ha insanguinato l'incantesimo, quando lo champagne era succo di arsenico. Gli amici non sono più molti, quelli che stanno ancora in piedi era meglio fossero morti. Mi resta poco e niente ed un sacco di soldi, almeno sono pieno di Jordan e tu di Zanotti. Ma ti ricordi quando dicevi andrà tutto bene? Ti tengo i soldi, almeno ci porteranno via insieme. Quando usciremo mi verrai a prendere col Mercedes, faremo invidia a tutte quante le mie amiche sceme. Sei solo tu quello che ho, l'unica droga a cui non ho saputo dire no. Ed è ancora forte come Balboa, come pastiglia d'oro. Amore stupefacente, il cartello di Sinaloa. Male, quando i mischilla sputa sangue, insomma va che non va de puta madre. E le persone serie, gli eroi del mio quartiere, si sono fatti comprare da una busta e dal bere. Tu sei rimasta una regina, l'unica che nel male e nel malissimo mi è rimasta vicina. Senza niente da perdere in giro fino a mattina, per questo beviamo Gran Patron in una piscina. Stasera usciamo tardi, voglio camminarti davanti. Pago crudo di scampi, con ruote di contanti. Però mi guardi mentre prendo sti soldi e li strappo, perché per farli tu lo sai tutto il male che ho fatto. Yeah, prendimi la testa tra le mani, c'è rumore per nulla come Shakespeare, come una scaccia cani. E dormimi addosso ora che abbiamo casa a tre piani, come quando dormivamo coi pacchi dentro ai divani. Sei solo tu quello che ho, l'unica droga a cui non ho saputo dire no. Ed è ancora forte come Balboa, come pastiglia d'oro. Amore stupefacente, il cartello di Sinaloa. Voglio che tutti sappiano che stiamo bruciando, perché siamo fuoco e benzina, benzina, fuoco e benzina, benzina. Gli amici mi hanno tradito e io ho tradito loro, per un borsone di soldi ed una collana d'oro. La musica mi ha tradito e io ho tradito lei, ma te neanche per la musica io ti tradirei. Noi due avevamo l'aria e l'amore, persino un motel ad ore sembrava il Burj Khalifa. Ora abbiamo un letto migliore, cose che hanno un valore, ma siamo fuoco e benzina tutta la vita.